Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapete qual è il secondo paese al mondo per il reshoring? L'Italia, con 80 casi di aziende che sono tornate indietro. Cioè, che avevano portato le loro lavorazioni all'estero, avevano portato stabilimenti all'estero e li hanno riportati qui. Il primo caso sono gli Stati Uniti con 300 aziende che lo hanno fatto, anche perché negli Stati Uniti il reshoring è un movimento sostenuto dalla politica industriale di Obama. Qui da noi, in Italia, la politica industriale non se ne parla, eresia, cosa immonda, il diavolo, e quindi sono imprenditori che hanno fatto scelte autonome e hanno deciso di tornare qui. Il terzo paese è la Germania con 40 casi, quindi la metà dei casi italiani. In Italia, come si è detto, però non c'è nessuna politica industriale a sostegno, sono semplicemente decisioni autonome portate da fenomeni diversi. Il reshoring è l'argomento di questa puntata di Fabbrica 2.4. Ieri abbiamo parlato a proposito dell'anomalia della delocalizzazione, oggi parliamo del suo opposto, che è la rilocalizzazione. I nostri ospiti sono il dottor Stefano Dolcetta, presidente della FIAM, una grande azienda di batterie, un'eccellenza tecnologica italiana. Buongiorno dottore. Sì, buongiorno. E Roberto Giovannini, partner di KPMG con la responsabilità di seguire il settore industriale e che ha studiato il fenomeno del reshoring. Buongiorno a voi, grazie. Allora, dottor Dolcetta, ci racconta com'è successo che la FIAM dalla Repubblica Ceca ha chiuso uno stabilimento e ha portato le stesse lavorazioni che faceva ad Avezzano? Sì, dunque guardi, la scelta nasce da un problema, che era quello di avere un assetto industriale più efficiente possibile. Quindi noi ci trovavamo in quel momento ad avere due stabilimenti, uno ad Avezzano e uno in Repubblica Ceca, e volevamo averne uno solo di dimensioni più grandi e quindi con una massa critica più elevata. Abbiamo deciso di trasferire la produzione della Repubblica Ceca ad Avezzano perché in Repubblica Ceca avevamo dei problemi importanti, quanto avevamo un turnover elevato del personale, difficoltà a fare formazione del personale, problemi di scarti e anche uno stabilimento abbastanza vecchio che non ci consentiva di avere un layout ottimale. Abbiamo scelto Avezzano, abbiamo negoziato con i sindacati una riduzione del costo del lavoro di circa il 20%, abbiamo investito 40 milioni in nuovi processi produttivi, in nuovi prodotti legati alla tecnologia delle vetture stop and start, quindi una tecnologia in fase di espansione, e nel 2011 questo stabilimento è ripartito con circa 360 dipendenti, quindi 50% in più rispetto a prima, ma con una capacità di produzione che era tre volte superiore a quella di prima. Un salto avanti notevolissimo in termini sia di tecnologia dei prodotti sia di processi produttivi. Faccia conto che solo per grazie a questo abbiamo recuperato il 50% della differenza di costo fra la manodopera di Avezzano, il costo della manodopera di Avezzano e il costo della manodopera di Repubblica Ceca. La devo interrompere perché c'è la pubblicità e gli avvisi sul traffico, però restate assolutamente con noi, vietatissimo cambiare canale. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stavamo parlando con Stefano Dolcetta, presidente della FIAM, nonché maggiore azionista, e con Roberto Giovannini, partner dell'industria di KPMG, perché il nostro tema era il reshoring, cioè riportare le lavorazioni qui. Il dottor Dolcetta ci stava spiegando com'è avvenuto che uno stabilimento nella Repubblica Ceca è stato chiuso riportando le lavorazioni in Italia, come questo ha consentito di ottenere un incremento di produttività. Sì, devo dire che alla fine abbiamo avuto una forte collaborazione da parte dei sindacati che hanno capito perfettamente il problema e a fronte di un incremento dell'occupazione di circa da 220 persone siamo passati a 360. Abbiamo avuto un supporto importante insomma da parte sindacale e quindi questo ci ha consentito appunto di incrementare la produttività ma soprattutto di lanciare prodotti innovativi con processi sofisticati che richiedevano una forte... Insomma, lavorare in Italia conviene, Dolcetta? Ma insomma, nel caso nostro, per noi, io ritengo che sia stata una scelta corretta. Guardi, noi abbiamo ancora uno stabilimento in Repubblica Ceca, abbiamo circa 170 dipendenti, di cui siamo assolutamente soddisfatti. Ma nel caso specifico, questa era una scelta, secondo me, doverosa. Ma, sì, molto più conveniente. Ecco, sul reshoring io volevo dire che, anche se piace a tutti pensare a quest'idea degli stabilimenti che ritornano in Italia, oppure negli Stati Uniti, oppure in Germania, è comunque un fenomeno minoritario. 80 casi in 5-6 anni sono poca roba. Altri casi da ricordare sono la Fiat che ha riportato la Panda da Polonia a Pomigliano, la Piquadro che ha fatto qua alcune linee di lavorazione in pelle, e il tonno Asdomar che dal Portogallo è tornato alla Sardegna. Ma anche negli Stati Uniti, 300 casi, come ha ricordato la società di consulenza A.T. Kearney, che fa un monitoraggio puntuale del reshoring, quei 300 casi sono largamente minoritari, e comunque il valore economico dell'offshoring, anche in questi anni in cui la politica di Obama è pro reshoring, il valore economico del reshoring è assolutamente inferiore a quello dell'offshoring. Ma adesso volevo passare la parola a Roberto Giovannini, che ha appena sentito la storia della FIAM e che potrebbe commentarla brevemente nell'ambito degli studi e degli approfondimenti che in KPMG hanno fatto sul reshoring. Come legge lei questo caso? Beh, è un caso che va studiato specificamente per il settore. Il dottor Dolcetta ha spiegato che lì l'obiettivo era quello di ottimizzare una catena produttiva ed è stato colto in maniera specifica. Ogni degli 80 casi di reshoring in Italia che noi abbiamo analizzato ha una sua storia. Non c'è un fenomeno di sistema, non è il sistema Italia come sistema USA che sta riportando alle aziende, sono gli imprenditori che stanno facendo delle valutazioni, stanno valutando il cambiamento dello scenario e lo stanno cogliendo in modo puntuale. Ecco, una delle motivazioni è l'efficienza della catena produttiva, perché tante volte c'è un'insoddisfazione, tante volte è meglio avere know-how qua. L'altra motivazione, come voi avete rilevato nello studio, è invece per settori come la moda e il lusso, il fatto che l'ombrello del Made in Italy, dire che si fa tutto in Italia dal punto di vista del marketing, della comunicazione, dell'immagine, aggiunge molto valore, no, dottor Giovannini? Allora, 2/3 dei visitatori dei grandi centri commerciali li abbiamo appena monitorati in Italia sono russi e cinesi. Questi cercano una sola cosa, l'etichetta Made in Italy. Sui numeri del reshoring ho preparato questa scheda. Aziende manifatturiere che riportano in patria produzioni che in passato erano state delocalizzate all'estero. È il nuovo fenomeno del reshoring, termine creato in opposto all'offshoring. Il reshoring è uno dei pilastri della politica industriale americana di Barack Obama, basata sulla manifattura e sul sostegno alla crescita economica attraverso il sostegno pubblico alla ricerca di base e alla formazione di distretti super specializzati. Attualmente sono oltre 300 le aziende americane che hanno riportato in patria fabbriche che erano state delocalizzate. Dopo gli Stati Uniti, il secondo paese al mondo per reshoring è l'Italia, con circa 80 casi, pari al 40% di quelli europei. I casi più famosi sono la Panda, riportata dalla Polonia a Pomigliano d'Arco, le batterie FIAM, dalla Repubblica Ceca a Fucino in Abruzzo, e il tonno Asdomar, dal Portogallo alla Sardegna. In Germania, terzo paese al mondo per reshoring, ci sono state circa 40 aziende che hanno fatto reshoring. Negli Stati Uniti, il reshoring è favorito da incentivi statali e basso costo dell'energia. In Italia, il rientro delle produzioni è frutto di un convincimento spontaneo da parte degli imprenditori e non un fenomeno maturato nell'ambito di una precisa politica industriale. Il reshoring è un fenomeno interessante e di valore, però largamente minoritario negli Stati Uniti, in Italia, in Germania e ovunque. La stessa società di consulenza strategica A.T. Kearney, che negli Stati Uniti monitora il fenomeno attraverso due indici, l'Offshoring Index e il Reshoring Index, ha sottolineato che nel 2013, ultimo anno disponibile, il valore economico delle delocalizzazioni, pari a 630 miliardi di dollari, ha largamente superato quello delle rilocalizzazioni. Secondo l'indagine Quali quantitativa di KPMG Ipsos condotta nei mesi di marzo e aprile 2015, su un campione di 65 aziende industriali attive in Italia, prevalentemente al nord, la possibilità di rientrare in Italia è presa in considerazione solo dal 27% delle aziende intervistate. Il 2% ha già riportato in Italia le produzioni. L'8% sta valutando questa opzione e il 17% è possibilista. Invece il 65% dichiara di non valutare questa opzione nemmeno per il futuro. Rieccoci in linea dopo la scheda. Stavamo parlando con Stefano Dolcetta di Fiamme e con Roberto Giovannini di KPMG a proposito di reshoring. Ecco, dottor Dolcetta, lei pensa che la vostra esperienza sia generalizzabile, che ci sia una sorta di morale della favola da ricavare da questo caso? Ma guardi, io sono d'accordo con il dottor Giovannini, cioè credo che ogni azienda fa caso a sé, nel senso che ognuno cerca di risolversi nel modo migliore i problemi o di cogliere le opportunità. Manca una politica industriale in questo paese e manca un sistema industriale che ti consenta, voglio dire, di espandere questo discorso del reshoring. Negli Stati Uniti è completamente diverso. Io dico, noi abbiamo portato lo stabilimento ad Avezzano, io non ho avuto una persona, un politico che sia venuto a dirmi complimenti, grazie, avete fatto una cosa utile per il paese. Cioè, voglio dire... Ecco, ma lei come vede le politiche industriali fatte o non fatte da questo governo? Positivo ha fatto, no, per l'industria, e penso in particolare al Jobs Act, penso alla legge di stabilità che ha consentito la decontribuzione per gli assunti. Però la politica industriale non c'è. Però la politica industriale non c'è, questo sono d'accordo con lei, e questa è una carenza forte di questo paese. Bisognerebbe certamente far sì che l'industria manifatturiera, l'industria meccanica, io sono un meccanico e quindi magari sono di parte, ma insomma ci fosse un maggior sostegno soprattutto nella ricerca, nello sviluppo e nella capacità di esportazione dei nostri prodotti. Ecco, qui bisognerebbe lavorare molto di più. Ci sono paesi, i nostri concorrenti, che insomma, i cui governi si applicano in maniera più efficace rispetto a quello che viene fatto in Italia. E certo, speriamo tutti che questo avvenga. Abbiamo un notevole da recuperare. Ma gli imprenditori vogliono la politica industriale, questa è la mia sensazione. Insomma, la politica industriale vogliono dei contributi, non so, per la ricerca, per esempio, per gli investimenti. Come ci sono in Germania e negli Stati Uniti. Noi investiamo l'1% e non il 3% della Germania. Voi avete a che fare con concorrenti tedeschi che sono molto appoggiati dal loro governo con investimenti, ricerca e sviluppo. Loro hanno le Fraunhofer, noi no. Assolutamente. Assolutamente, ma poi io voglio dire, noi abbiamo un gap di produttività con la Germania, il famoso CLUP, no? In cui da noi aumenta molto di più rispetto a quello tedesco, il costo del lavoro per unità di prodotto, ma la riduzione del CLUP non lo si fa solo con la riduzione dei contributi, con la riduzione del costo del lavoro, ma la si fa anche con una ricerca e sviluppo avanzata, con processi produttivi. Sono parole sante queste. Senta, dottor Giovannini, mi dica... Allora, il reshoring in tutta questa prospettiva, secondo lei che cosa significa davvero? In tutta questa prospettiva significa stimolo ed entusiasmo, però, come tornando a prima, deve essere un di cui, di un progetto più ampio, di politica industriale, dove Renzi o chi per lui ci dica che cosa deve essere l'Italia non fra un anno o due anni, che cosa deve essere l'Italia fra 10 anni, fra 20 anni. Dobbiamo capire, se no non possiamo aiutare noi come società di consulenza l'imprenditore a pianificare gli investimenti, che cosa vuole essere l'Italia fra 10-20 anni, non fra 1-2 anni. Che cosa ne pensa lei, dottor Dolcetta? No, credo che il dottor Giovannini abbia perfettamente ragione, cioè dobbiamo avere una strategia di lungo periodo, non possiamo vivere di opportunismi o solo di politiche a breve, insomma. Dobbiamo sapere cosa vogliamo essere nel nostro futuro. Questo sarebbe bello. I settori industriali che hanno un peso a livello... Come fanno peraltro i grandi stati delle grandi economie capitalistiche, perché così è negli Stati Uniti, così è in Germania, così è in Francia, così è in Inghilterra. Noi dovremmo semplicemente imitare quello che fanno gli altri, perché gli altri la politica industriale ce l'hanno. Assolutamente. Bene, il tempo è tiranno, ringrazio i nostri ospiti. Grazie a voi. E ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a voi.